известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Questo è il drammatico audio di un video amatoriale che sta facendo il giro del mondo, probabilmente ne avete già sentito parlare anche qui su Radio 24, nei GR è stato più volte evocato, ricordato, tirato in ballo, perché la storia è tutt'altro che destinata a essere un episodio, sembra più un'origine, potrebbe essere una causa e gli effetti saranno tutti da scoprire. Ricordiamo Neda uccisa in Iran. Neda è morta con gli occhi aperti, facendo vergognare noi che viviamo con gli occhi chiusi. Neda, non ti dimenticheremo, non sarai morta in vano. Sono messaggi che circolano per il mondo a velocità istantanea di quello che sta diventando un simbolo. Una ragazza di soli 16 anni, nome Neda Soltani, 16 anni, studentessa di filosofia, la piange una parte consistente dell'Iran, la piange la rete che sta diventando il veicolo, il mezzo, lo strumento, il vettore di queste giornate drammatiche e forse assai significative nelle storie di questa nazione. Un reporter americano fa sapere che la ragazza è già stata seppellita per evitare che i suoi funerali diventassero a loro volta una manifestazione politica, ma la sua immagine, l'immagine di questo video drammaticissimo che sconsigliamo a chiunque non abbia seri motivi per vederlo e una consapevolezza per farlo, restano comunque impresse e segnano, come dire, indelebilmente queste giornate e la direzione che esse potrebbero prendere, a cui dedicheremo buona parte del programma di oggi, anche con la partecipazione di un giornalista che ci potrà dare certamente informazioni aggiornate e competenti. Sentiamo la voce di Barack Obama appena un paio di giorni fa e poi ragioniamoci sopra un attimo. I'm very concerned based on some of the tenor of, and tone of the statements that have been made that the government of Iran recognize that the world is watching. Sono molto preoccupato per il tenore e il tono della guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha detto Barack Obama in una intervista alla CBS. Il governo dell'Iran dovrebbe essere consapevole che tutto il mondo sta guardando, si sta spostando, si sta modificando l'atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti, naturalmente un atteggiamento assai importante per definire poi la direzione che tutta questa storia prenderà, anche se naturalmente non necessario e sufficiente a farle prendere una direzione. In questo senso i fattori interni, almeno per il momento, almeno finché sarà una questione popolare, avranno certamente l'influenza principale. Ma Barack Obama partito la settimana scorsa con toni molto prudenti, dicendo non so cosa dire per prendere una presa di posizione intransigente sulla questione, perché non so cosa dire nella differenza del rapportarsi degli Stati Uniti d'America con un Iran di Ahmadinejad o con un Iran di Mousavi. Poi ha modificato, ma verrebbe da dire lievemente, no? In modo comunque controllato il proprio atteggiamento, ha alzato i livelli di guardia, si è detto preoccupato di quanto sta accadendo, perché comunque si comincia a parlare di decine di morti, di manifestazioni ripetute tutti i giorni, di manifestazioni proibite, si parla soprattutto di minacce ormai apertamente proferite da chi è agente del potere in Iran, affinché queste manifestazioni, queste forme di opposizione si concludano, e ci riferiamo naturalmente ai Pasdaran. Cosa ha voluto fare Barack Obama con quella prudenza, con quella presa di posizione così poco, no, eroica, descrittiva, rappresentativa, che in un certo senso poteva deludere tanti suoi sostenitori? Ci hanno pensato e ci hanno ragionato sopra in parecchi. Uno di questi è l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, che sostiene che Barack Obama avrebbe seguito sull'Iran la linea giusta. Ha detto Kissinger: penso che il presidente abbia affrontato bene la questione. Tutto quello che gli Stati Uniti dicono a favore di un contendente, diciamo ad esempio di Mousavi, rischierebbe infatti di trasformarsi in un boomerang per quella persona. In sostanza Kissinger è stato uno dei pochi esponenti del suo partito che ha preso le distanze invece dalle sonanti critiche espresse alla linea Obama su Washington Post. Oggi l'ex sottosegretario alla difesa di George W. Bush, Paul Wolfowitz, uno degli ideologi del neoconservatorismo, ha criticato Obama paragonando il suo silenzio alla reazione inizialmente neutrale di Ronald Reagan dopo la crisi delle elezioni filippine del 1986 e del suo successore George H.W. Bush, Bush padre, davanti al tentativo di colpo di Stato contro Michael Gorbachev nel 91. Secondo Wolfowitz non è tardi perché Obama corregga la rotta e in un certo senso, in parte almeno, Obama la rotta l'ha corretta. C'è anche qualcuno che in questi giorni spende parole in favore di Barack Obama. Adesso ci spostiamo un momento dal fronte internazionale, dal Medio Oriente, a cui torneremo tra pochi minuti per analizzare situazione di tenuta della presidenza di Obama in queste ultime settimane. Dunque, da un lato va detto che il senatore John McCain, che è stato il concorrente di Barack Obama alla Casa Bianca nelle presidenziali, in una sfida che può essere ben ricordata come cavalleresca, ebbene, in una intervista anche lui alla CBS ha preso le difese di Barack Obama, ha ammesso che il suo ex contendente è riuscito a centrare i suoi traguardi legislativi, anche se lo ha fatto quasi sempre coi voti al Congresso dei soli democratici, quindi mandando un po' in soffitta quel tentativo bipartisan a cui molto si era ispirato all'avvento della sua presidenza. Ha citato anche aspetti negativi, ha detto che chiudere Guantanamo senza avere prima un programma preciso su come e cosa fare probabilmente è stato un errore. Ha detto che sulla questione iraniana Obama fin dall'inizio avrebbe dovuto schierarsi con maggiore chiarezza e maggiore impeto in favore delle manifestazioni di protesta per le strade del paese, della sorveglianza su questo misterioso voto elettorale, la cui limpidezza naturalmente è sempre più in discussione, ma nel complesso ha dato un voto più che buono alla presidenza di Obama in questi primi 4 mesi di lavoro. Cosa che continua a essere tale, cioè siamo ben oltre la sufficienza, ma si va lievemente incrinando, e questa è una notizia a cui i media americani stanno dando molta attenzione nella loro mattinata, si va incrinando nei sondaggi. Un sondaggio Gallup, la massima casa specializzata negli Stati Uniti, rende infatti noto oggi che la popolarità di Barack Obama è scivolata per la prima volta al 58%, livello più basso da quando è alla Casa Bianca, e che questo è un fattore importante di cui prendere nota. Dall'inizio a oggi il valore medio di questo dato per Barack Obama è stato intorno al 63%, quindi c'è una flessione piuttosto sensibile, dovuta secondo Gallup alla perdita di fiducia soprattutto in alcune aree di cittadini americani, ovvero repubblicani e indipendenti, che a un certo punto hanno deciso di sostenere Barack Obama, ma un po', come dire, pro tempore, no? Stando a vedere che cosa fosse capace di esprimere il nuovo presidente, e che man mano che passano i mesi stanno un po' perdendo fiducia, speranza, o comunque vedendo aumentare i livelli di scetticismo nei confronti del suo operato. Infatti sembrerebbe dai dati che il sostegno dei democratici per Obama sia inalterato, ci sarebbero decisioni non troppo popolari. Anche se nel frattempo sondaggi condotti dal New York Times e dalla CBS vanno in controtendenza alla Gallup e dicono che secondo loro i livelli di approvazione di Obama restano alti, restano sopra il 63%, un valore comunque altissimo, stiamo parlando di numeri di un presidente di successo. però solo il 41% degli americani, e vediamo che questa sfiducia nei confronti dell'operato di Obama risiede alla fin fine su questioni interne. Non si parla di Iran e non ve lo aspettate, si parla invece del 41% degli americani che approva le scelte di Obama per il salvataggio dell'industria dell'auto, si parla del 44% degli americani soltanto che sostiene il suo piano di riforma sanitaria, si parla di preoccupazioni sempre crescenti riguardanti il deficit di bilancio, il 52% degli americani penserebbe che Obama farebbe bene a dare priorità alla riduzione del deficit, quindi prima di spendere più spendere di meno, non credono alla sua politica di investimenti. Rivelatrici sarebbero anche le risposte ad alcune domande su chi sia il responsabile del deficit, il 46% in colpa Bush, il 28% in colpa Obama, solo in colpa il Congresso, solo il 6% in colpa Obama. Insomma, sta pagando i prezzi di errori precedenti, ma di fatto si sta un po' allentando, no? Come dire, questo zoccolo di grande ottimismo che ha portato, che ha fatto volare a lungo Obama in questi primi mesi di presidenza. Come ho detto al Cairo, e chiudiamo questa apertura di settimana anche di Jefferson, tornando a quel discorso di una quindicina di giorni fa su cui devono secondo me ruotare parecchi dei ragionamenti anche attorno ai progressi delle prese di posizione americane nei confronti delle crisi medio orientali. Come ho detto al Cairo, ha detto Barack Obama nel corso di una recente intervista, è il tentativo di sopprimere le idee non riuscirà mai a cancellarle. Questa è una frase molto chiara e io comunque la ripeto. Come ho detto al Cairo, il tentativo di sopprimere le idee non riuscirà mai a cancellarle. Questo è un punto di partenza programmatico ed è una filosofia, una visione politica a cui Barack Obama sta improntando le proprie scelte di politica internazionale e da cui discendono poi la prudenza e comunque le guardinghe prese di posizione e anche gli avvisi rilasciati con un piglio ben diverso da quello dei suoi predecessori. Alla fine, sempre tornando a parlare di Iran, il popolo iraniano sarà l'ultimo giudice del suo governo. Se il governo iraniano cerca il rispetto della comunità internazionale, deve rispettare la dignità del suo popolo e governare attraverso il consenso e non la coercizione. Cita anche Martin Luther King, una volta disse: l'arco dell'universo morale è lungo, ma è curvato sulla giustizia. Bisogna partire da qua per capire dove si voglia collocare oggi la Casa Bianca in questi scenari crisi che non accennano a trovare la calma e la serenità invocata da chi comanda da quelle parti. Noi su questo metteremo il fuoco delle nostre trasmissioni di questi giorni. Un po' dilungati in apertura, ma c'è molta carne al fuoco, c'è uno scenario complesso e soprattutto che può indurre anche a conclusioni o a intuizioni magari un po' troppo frettolose. Bisogna cercare di capire. Oggi cercheremo di farlo con Alberto Negri, sottoponendogli alcune domande in relazione allo scenario iraniano di cui è stato testimone fino a pochissimi giorni fa. Prima però qualche altro aggiornamento, il nostro consueto spazio di notizie internazionali. 360 gradi News dai punti sensibili del pianeta. Vai, vai. Ma inevitabilmente restiamo sintonizzati sull'Iran. Vorrei accennare un'iniziativa di Mohsen Makhmalbaf, scrittore, regista soprattutto, regista, certo, noto anche in Occidente, direi su tutti, Viaggio a Kandahar, il film forse, certo, che l'ha reso più celebre. In queste fasi concitate, a loro modo memorabili, indimenticabili dell'Iran, Makhmalbaf funge anche da portavoce ufficiale all'estero di Hossein Moussaoui, quindi ha un ruolo ben preciso, e domani, a meno che il programma non dovesse cambiare nelle prossime ore, parteciperà ad una conferenza stampa presso l'Associazione della Stampa Estera in Italia, quindi a Roma, qui vicino alla nostra sede di Radio 24. Noi ci saremo, insomma, vuole affrontare la situazione iraniana e soprattutto pare presentare un appello al presidente Berlusconi, quindi al presidente italiano, per la revoca dell'invito esteso al governo di Mahmoud Ahmadinejad a partecipare al vertice dei ministri degli esteri dei paesi del G8 che si terrà tra pochissimi giorni a Trieste, nel quale si dovrebbe discutere anche della situazione di pacificazione o comunque di stabilizzazione di Afghanistan e Pakistan. Quindi credo che l'Iran, cioè, cerchiamo sia di, rimere, invitato, di chiarire bene questa possibilmente situazione, come comunque è stato confinante interessato alla vicenda, insomma, dell'Afghanistan. E Makmal Baf chiede sostanzialmente che il governo italiano revochi l'invito ad Ahmadinejad, vista la situazione, diciamo così, di impasse, per usare un eufemismo, nel quale versa l'Iran, cioè non gli concede la presentazione. Vedremo insomma poi come andrà a finire. Domani, insomma, saremo lì a curiosare, a cercare di capire meglio la situazione. Diamone un'altra al volo, facciamo in tempo. Un'altra sempre legata all'Iran, perché di Iran ha parlato inevitabilmente Netanyahu. Israele, insomma, è un vicino di casa che è in arrivo. Interessato, insomma, scomodo anche se vogliamo nei confronti dell'Iran. Netanyahu sarà a Roma anche lui domani, incontro con Berlusconi, e anche questo lo seguiremo. Netanyahu ha rilasciato un'intervista alla Bild nella quale ci ha tenuto a precisare che i rapporti tra la popolazione iraniana e la popolazione israeliana non sono poi così male, così negativi, non c'è nessun intento, insomma, di guerra tra i due paesi, ma ha anche aggiunto che sarebbe possibile stabilire un rapporto pacifico tra i due stati se un nuovo leader prendesse il potere nel paese. Quindi chiede sostanzialmente che Ahmadinejad se ne vada, o così perlomeno crede Netanyahu che voglia il popolo iraniano. Insomma, dice: senza alcun dubbio i cittadini iraniani avrebbero scelto un governo diverso se le elezioni fossero state libere. Quindi parole nette e decise del premier israeliano Benjamin Netanyahu. E arriva anche la notizia che il presidente del Parlamento iraniano, Ali Lariani, citato dalla TV saudita Al-Arabiya, avrebbe chiesto un faccia a faccia televisivo tra il leader riformista Mousavi e il presidente in carica Ahmadinejad. La proposta dovrebbe servire a stemperare le tensioni scoppiate dopo la proclamazione di Ahmadinejad. L'emittente si dilunga sul grande scontento degli Ayatollah, che sono anche parte in causa. Il confronto avrebbe un significato, come dire, potrebbe essere una bomba con una miccia accesa. Sarebbe epocale anche questo. Ma sarebbe epocale. Ne parliamo comunque tra poco con gli interventi di Alberto Negri. Ci sentiamo. So Dunque, torniamo a parlare di Iran. Innanzitutto è uscita questa... questa agenzia che ci informa che un'analisi dei risultati elettorali in Iran porrebbe dei seri dubbi sulla vittoria del presidente Ahmadinejad e evidenzierebbe irregolarità sui numeri forniti dall'autorità di Teheran. Ad affermarlo è l'autorevole Royal Center for International Affairs di Londra, chiamato più comunemente Chatham House, dal nome della sua sede, che tra varie anomalie denuncia proprio lo spostamento massiccio, che viene definito, tra virgolette, implausibile, dei voti tradizionalmente conquistati dai riformisti verso il conservatore Ahmadinejad. In pratica dicono: ma com'è possibile che tutto ciò sia successo, che tutto ciò si sia spostato? E un'altra agenzia di pochissimi istanti fa informa che la manifestazione della opposizione organizzata a Teheran contro la rielezione di Ahmadinejad si è conclusa 2 ore dopo l'inizio a causa di forte presenza della polizia, che ha lanciato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Ci sarebbero testimonianze dirette in relazione a tutto ciò. Bene, abbiamo in collegamento di nuovo Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, autore tra l'altro di un ottimo libro sull'Iran che si chiama Il Turbante e la Corona, Iran 30 anni dopo. È rientrato in Italia, Alberto, perché è scaduto il visto, quindi il collegamento magari sarà migliore. Certamente il suo umore no, perché suppongo che a questo punto avrebbe voluto essere sui luoghi dei fatti che si stanno svolgendo. Lo salutiamo, lo ringraziamo per essere con noi. Ciao Alberto. Buongiorno a tutti voi. Ma cominciamo sul personale. Com'è questa storia dei visti per i giornalisti, che coinvolge te e coinvolge tanti altri tuoi colleghi? Com'è la questione? Cosa succede? Viene ritirato e il rinnovo non è garantito, non è certo? I visti durano 12 giorni e non sono stati rinnovati. Uh-huh. In altre occasioni non era molto difficile ottenere una proroga di una settimana o altri 10 giorni. In questo caso ovviamente hanno tenuto a mandare via i testimoni scomodi, e questo lo si vede anche da quello che è stato l'andamento del lavoro in queste settimane. Anche se, come dire, per carità, a fronte della qualità e delle capacità espresse dai corrispondenti in queste giornate, poi comunque continua a correre, no? questo flusso, che potrei definire quasi inarrestabile, mi sembra, di informazione spontanea generata attraverso i nuovi media, che in un certo senso è un fenomeno altamente connesso a questa situazione iraniana di questi giorni, e ne sta diventando in un certo senso anche la vera rappresentazione, non credi? Sì, poi ritengo molto importante non soltanto ovviamente avere le notizie aggiornate con i mezzi che si hanno adesso, ma quello che conta è avere rapporti coltivati da anni dentro questo paese, certo, che ti permettono di interpretare queste notizie di quello che avviene dietro le quinte, che non si vede. Quindi non sei, come dire, un sostenitore a tutto tondo di questo grande mondo internet che prova a raccontare una presa di posizione, una rivolta, chiamiamola come vogliamo, a modo suo, cioè con la spontaneità dei telefonini, dei cellulari. No, non c'entra nulla con questo, soltanto sottolineare che va bene internet, ma internet non sostituisce la conoscenza approfondita di un paese, certo, di un'area geografica. Se tu ci vai da 28-29 anni, certo, è chiaro che forse hai delle conoscenze, delle informazioni, delle possibilità di sentire dei persone contatti, che possono aggiungere, dare un valore aggiunto, no, a tutto questo. Eppure, esempio, la notizia che dicevi prima, no? Quella della Chatham House, certo, è sempre un po' poco elegante citarsi, ma io domenica mattina parlavo di 6 milioni di voti che si aggirano come fantasmi da anni nelle urne iraniane. Già nel 2005 si parlava appunto di 6 milioni di voti di defunti, cioè certificati elettorali di gente già morta, che venivano utilizzati, e portavo la testimonianza di un Basigi, cioè di un miliziano che aveva votato 11 volte. Quindi è chiaro che questi brogli ci sono sempre stati, ci sono, e lo stesso Consiglio dei Guardiani peraltro ha riconosciuto oggi che ci sono stati 3 milioni di voti conteggiati in più. Insomma, Che è stata una missione, come dire, un po' candida, fatta dicendo: ma tanto questo non sposta la sostanza. Ma insomma, 3 milioni non sono proprio noccioline, no? Certo, naturalmente che non sposta magari la vittoria elettorale di Ahmadinejad, ma dico i voti sono più di tre, appunto, come dicevo prima, perlomeno sei, che sono voti incontrollabili, perché appunto certificati elettorali che vengono gestiti in genere da chi è al potere in quel momento, no? E essendo al potere Ahmadinejad dal 2005, questa valanga di voti è una specie di bonus, chiamiamolo così, che chi è al potere si aggiudica e che sposta a suo piacimento. Ecco, tra l'altro noi abbiamo sotto gli occhi le immagini CNN e Fox. A proposito di quelle immagini spontanee, io condivido in pieno ribadire la necessità della competenza, per carità, è sacrosanto. Di fatto le televisioni americane si sono buttate, no, come lupi affamati sulle immagini della ragazza sedicenne colpita da un cecchino, o su quelle immagini di violenza registrate con i telefonini. Le stanno riproponendo ormai a rullo continuo, e non a caso ci sono notizie dagli Stati Uniti, da New York, da Los Angeles, di mobilitazioni, come se poi alla fine l'immagine secca, no, può destare quel risveglio in opinioni pubbliche magari non ipersensibili, che altre cose, altri media faticano a destare. Ma ti volevo sottoporre a questo proposito una dichiarazione fatta da quel Moshe Makhmalbaf, che domani sarà qui a Roma e che noi cercheremo di seguire nella sua conferenza stampa in cui reciterà anche le ragioni di Mousavi. Insomma, lui ha detto una cosa interessante, ha paragonato Mousavi a Obama, ha detto è l'Obama iraniano, insomma, è un'espressione che ti trova d'accordo, che ti colpisce, tanto più dopo che proprio lo stesso Obama nei confronti di Mousavi è stato così ripetutamente prudente, no, nelle espressioni di giudizio, nel distinguere, nel dire cerchiamo di capire veramente le differenze, l'identità. Che cosa ne pensi? Ma io questi paralleli, Makhmalbaf io lo conosco molto bene da 20 anni. Tra l'altro lui è un rivoluzionario da prima ora, forse voi non lo sapete, ma finì persino in carcere perché accoltellò un uomo, e quindi forse non conoscere appunto la biografia dei personaggi ti aiuta anche a capire quali certe dichiarazioni che valore abbiano. Cerca lo scoop, vuole fare un valore. Ma valore per noi che siamo qui in, certo, Occidente, no? A me piace più raccontarvi, magari se volete, cosa sta accadendo oggi a Teheran. Per, certo, esempio, certo, prima ho parlato con una studentessa del master di linguistica che mi diceva che oggi si è presentata all'università per fare un esame e c'erano 27 allievi, ma neppure un professore. 12 si sono rifiutati di fare l'esame e a questi è stato messo uno zero, ma non dai professori, che non si sono presentati per non doversi schierare o per Mousavi o per Ahmadinejad, ma dagli ausiliari, cioè dai bidelli. Cioè, capite che situazione ci troviamo oggi, lacerante in questo paese, no? Diviso, lacerato, indeciso anche a prendere delle posizioni, dove si verificano anche episodi, se vogliamo, grotteschi. Tra l'altro un altro ruolo che ci incuriosisce in queste ore osservando l'Iran, e che tu forse ci puoi spiegare meglio, tra l'altro ne parlavamo anche con una nostra amica e collaboratrice che si chiama Maria Grazia Nardu, che è una ricercatrice dell'Università di Firenze, è il ruolo delle guardie rivoluzionarie, dei Pasdaran, che sono tornati così prepotentemente in scena in queste ultime ore, mentre sembra un po' più assente il ruolo militare, no? Il ruolo dell'esercito iraniano, che in questo momento non è al centro della scena. È una cosa che ti sorprende o una cosa che ti trova, come dire, naturalmente soggetta alle notizie? Ti sei sorpreso da questa assenza dei militari e questo ritorno di fiamma dei Pasdaran? No, assolutamente no, perché purtroppo questa è una tendenza che non ho rilevato certo soltanto io, ma gran parte degli osservatori che si occupano di Iran, non adesso ma in questi anni, sì, dopo l'ascesa di Ahmadinejad, c'è stato un prepotente ritorno dei Pasdaran sulla scena. Pasdaran non sono mai andati, le guardie della rivoluzione, in quanto rappresentano l'ala militare più specializzata, quella che riceve più contributi. Loro hanno tutte le armi, hanno la marina, hanno l'aviazione, hanno le truppe a piedi, è un esercito duplicato, ma mentre l'esercito, le forze armate tradizionali sono un po', come dire, delle ancelle, ecco, i Pasdaran sono l'eccellenza, sono 300-350 mila uomini al comando di Ali Jafari, che dispongono non solo di mezzi militari tra i migliori, i più raffinati, i più tecnologicamente avanzati della Repubblica Islamica, ma anche di un network economico che consente loro di avere anche un potere economico nella società. Se resti ancora con noi 5 minuti, Alberto Negri, subito dopo le notizie dal traffico torniamo a parlare con te. Grazie. Heavy downbeat of one and the show began. London calling, strike up the contraband. Stroke of a gene, just stroke of luck, he got it right. Took the hit and we were gone. Take me along. We wore pictures of Strummer. Such a thing can prepare the life, like a pipe dream smack square between the eyes. Death of a salesman, stroke of luck, he got it right. After all, it's just a song. But it took me a long time. Siamo ancora in collegamento con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, ha seguito per molti giorni dall'Iran i fatti relativi alle elezioni presidenziali, tutto ciò che ne è seguito. Ora è rientrato in Italia, ci sta aiutando a capire e a commentare. Alberto, una cosa che vorrei chiederti riguarda proprio la piazza iraniana, cioè questo straordinario, per molti versi inattesa capacità di reagire espressa da quanti hanno manifestato, in particolare a Teheran, una settimana in cui tante cose sono state dette, molte cose sono state viste. Ecco, vorrei sapere da te se avevi previsto uno sviluppo di questo genere, se te lo aspettavi, se ti ha sorpreso, se era qualcosa che in un certo senso chi segue queste cose vicino come te e altri colleghi ha destato sensazione, sorpresa in tutti voi. Non solo sorpresa e sensazione, ma anche un'emozione straordinaria. Nessuno si aspettava che dopo questa elezione così rapidamente archiviata dal potere, con un risultato molto dubbio e pieno di probabilmente anche di brogli, ci fosse questa reazione straordinaria. Sabato mattina, quando io ho visto arrivare lungo Wali Ask, il viale più lungo di Teheran, 12-13 chilometri di boulevard, ho visto arrivare 20 milioni, migliaia, decine di migliaia di persone con i fazzoletti verdi che protestavano, Beh, è stata un'emozione straordinaria perché mi ha ributtato agli anni, primi anni 80, quelli della rivoluzione, quando c'erano queste grandi masse che si muovevano a manifestare, a protestare, a portare le loro opinioni. È stata davvero un'emozione, una grande sorpresa e un'emozione, e ancora di più il lunedì milioni di persone in piazza. Anche una certa sorpresa ha destato, o magari forse in termini assai minori in chi conosce gli scenari come te, la presa di posizione verso la fine della settimana della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, che dopo qualche incertezza o qualche tempo di attesa ha preso una posizione invece molto chiara, no? Molto schierata, in un certo senso una sponsorizzazione vera e propria di Ahmadinejad. A che cosa attribuisci questo posizionamento così preciso? Semplicemente al non volere tante storie, insomma, a calmierare la situazione, o c'è una reale sintonia tra le due personalità? Ma io penso che Khamenei, non da oggi, ma già quattro anni fa, nel 2005, quando Ahmadinejad fu eletto la prima volta, ha individuato in lui il personaggio che gli consentiva finalmente di essere una guida suprema non oscurata da altri protagonisti sulla scena. Prima c'era stato Mohammed Khatami, il presidente riformista, ve lo ricordate, quello col turbante nero, sorridente, elegante, che raccoglieva successi in tutte le parti del mondo quando parlava, no? E poi Rafsanjani, che è stato per 30 anni praticamente il deus ex machina, il grande regista della politica iraniana. Insomma, questa benedetta guida suprema non era mai realmente suprema, ma era sempre un po' dimezzata. Senti, domani arriva a Roma Netanyahu. Oggi, rispondendo alle domande dei giornali, ha spiegato che tutti condividono il desiderio di libertà degli iraniani, ma che in ogni caso ciò che conta è impedire che l'Iran si doti di bombe atomiche. C'è chi parla anche di un grande sconcerto all'interno di molti ambienti israeliani per come stanno seguendo gli eventi dell'Iran. Pensi, ti aspetti qualche presa di posizione particolare o appunto sorprendente da Netanyahu o no? Ma non so, io mi auguro, me lo auguro, certamente non mi permetto di consigliare nessuno, ma mi auguro che gli iraniani ai loro diritti, mi sembra che ci stiano pensando da soli, con una lotta che noi dobbiamo appoggiare come mondo democratico, certamente, e forse il primo ministro israeliano dovrebbe occuparsi di più dei diritti dei palestinesi. Senti, ti ringraziamo, contiamo di averti nuovo in trasmissione per seguire questi eventi che sai decifrare così bene, Alberto. Grazie a voi, buona giornata. Alberto Negri, vi ricordo un suo libro in circolazione appunto per approfondire la questione, si chiama Il turbante e la corona, Iran 30 anni dopo, è pubblicato da Tropea. Mossad, che certe cose le sa più lunghe di altre, o perlomeno sostiene di saperlo, dà anche una data alla disponibilità nucleare dell'Iran. In un certo senso butta un po' di benzina sul fuoco di Netanyahu, gli dice: guarda che prima del 2014 da quelle parti non se ne parla. Torneremo a parlarne qui a Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia Alessandro Chiappini, a Roma, Pietro Lacorte, a Milano. Jefferson 2 è trade24.it, è il nostro indirizzo mail. Le pagine Facebook sono redazione Jefferson 2, Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself. A mezzanotte la replica, il podcast sul sito della radio, la diretta dopo le 4 qui su Radio 24. Ci risentiamo.